Vangelo di San Luca, capitolo 23. Poi, levatasi tutta l'assemblea, lo menarono a Pilato, e cominciarono ad accusarlo dicendo, «Abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a Cesare, e diceva d'esser lui il Cristo re». E Pilato lo interrogò dicendo, «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispondendo gli disse, «Sì, lo sono». E Pilato disse ai capi sacerdoti e alle turbe, «Io non trovo colpa alcuna in quest'uomo». Ma essi insistevano dicendo, «Egli solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fino a qui». Quando Pilato udì questo domandò se quell'uomo fosse Galileo, saputo che egli era della giurisdizione d'Erode, lo rimandò a Erode, che era anche egli a Gerusalemme in quei giorni. Erode, come vide Gesù, se ne rallegrò grandemente, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza. Ed Erode, coi suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato. E in quel giorno Erode e Pilato diventarono amici, perché per l'indietro erano stati in inimicizia fra loro. E Pilato, chiamati assieme i capi sacerdoti e i magistrati e il popolo, disse loro, «Voi mi avete fatto comparire dinanzi quest'uomo come sovvertitore del popolo, ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate, e neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato a noi, ed ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte». Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò. Or egli era in obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa. Ma essi gridarono tutti insieme, «Fa morire costui e liberaci Barabba!» Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sedizione avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato da capo parlò loro, desiderando liberar Gesù. Ma essi gridavano, «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» E per la terza volta egli disse loro, «Ma che male ha egli fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Ma essi insistevano con gran grida chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono con avere il sopravvento. E Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano e liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione ed omicidio e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. E mentre lo menavano via, presero un certo Simone Cireneo che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Or lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse, «Figliuole di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figliuoli, perché ecco vengono i giorni nei quali si dirà, beate le sterili e i seni che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora prenderanno a dire ai monti, cadeteci addosso, e ai colli, copriteci. Poiché se fan queste cose al legno verde, che sarà egli fatto al secco? Or due altri, due malfattori, erano menati con lui per esser fatti morire. E quando furono giunti al luogo detto il teschio, crocifissero quivi lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte, e il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si facevano beffe di lui dicendo, ha salvato altri, salvi se stesso se è il Cristo l'eletto di Dio. E i soldati pure lo schernivano accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicevano, se tu sei re dei giudei, salva te stesso. È vera anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro rispondendo lo sgridava e diceva: non hai tu nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, essendosi oscurato il sole. La cortina del tempio si squarciò per mezzo, e Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto questo, spirò. E il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava il Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E tutte le turbe che si erano radunate a questo spettacolo, vedute le cose che erano successe, se ne tornarono battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Ed ecco un uomo per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene e giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed era da Arimatea, città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio, venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E trattolo giù di croce, lo involse in un lenzuolo e lo pose in una tomba scavata nella roccia, dove niuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione, e stava per cominciare il sabato. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come v'era stato posto il corpo di Gesù. Poi, essendosene tornate, prepararono aromi ed oli odoriferi.